Avanti chi è? Vabbè, Giuseppe. Ma tu eri trovando Giomarì? No, no, no. Non ero io, no, Giuseppe, ma c'è adesso. No, perché c'era tutta la sera questo qua, stava provando, cazzo, tu. Era poco, cazzo, di... a provare tutta la sera, cazzo, madonna, boh. Ehi, cazzo, lo provendi, qualcuno approvando come sempre e vabbè, si portasse che non dici più quando sono parlato, capito? Lascialo fare, vuol dire che sta approvando. Ehi, vabbè, non è quello il problema. Per me portava a provare tutto il giorno, non mi interessa. L'importante è che cazzo andava a dire chi era e non voleva rispondere, hai capito? Vabbè, io quando metto la portata già che mi chiedo la parte, ok, già rispondo, Se evidentemente se non la gana. Oh, non lo so chi è, Ehi, vabbè niente. Lo dico, una gara e fammi da... Già rimane da solo. Ehi, ehi, e beh, non c'è altro nessuno, no? Nessuno, sono tutta la sera così nascolto, però non c'è altro nessuno. Ehi, adesso comincia a scendere al mare, a abbronzarsi... E il baracchino lascerò a parte. Cosa vuoi fare, Giovanni? Ormai adesso mi sta iniziando l'estate, dunque adesso hai niente, tutta o Alghero, Platamona, non dico al mare, però a farsi un giro, capito, Alghero, almeno si distraggono un po'. Fanno bene, Cosa fai in casa all'appato? A me c'è un altro, trovi qualcuno, la chiacchierata così, un bicchiere di birra e tirato avanti. Giustamente, e cosa vuoi fare, Giovanni? Per carità, è un casino. Purtroppo è così, Giuseppe, non possiamo farci niente. Forse arrivo mentre li piatti. Non è che neanche il tempo di andare al mare, cazzo che la sera sta facendo quel freschetto, hai capito? Adesso non sembra di essere forte. Eia. Va bene, dai, ci sentiamo stasera se coincide, ok. Ti saluto, ciao Giuseppe. Ciao Giovanni, ciao, ci sentiamo, dai. Avanti, chi è? Avanti chi è? Chi è che mi disturba? Attento cuffetta, ci sei? Cuffetta! Ehi, arrivato sì! Glielo ho detto! Sono arrivato alle 3:30 a Sassari. Perché anche non è venuta tardi? È 1:30 atterrato. Te l'hai fatto un giretto, hai mangiato lì. E che giretto? Sono rimasto lì ad aspettare, non avevo gana di girare. No, ne avevo voglia. Mangiato un panioli, sì. E andavi lì sotto il ponte. Della strada che va al porto da Mario, bar ristorante, una trattoria, la trattoria dell'autista, paghi 2 cicchi di giro da poca di magna. Dove? Un paninetto, cosa, non mangio affugando, poi sto mangiando anche poco, capito? E tanto grazie, lo da un bel mangiavo panini io, non me li tempo. Ma se andavi lì con 10 euro ti mangiavi un bel primo o un risotto alla marinara, perché fa tutto a base di pesce, o i calamari frisci o polpi, e quello che c'ha, cosse c'ha, arselle, e una trattoria alla marinara, e ti mangi tutta roba di cosa di mari. E a primo risotto alla pescatora, prendete la pescatora come lo fanno loro. Sì, vabbè. Quando si fa un altro viaggio ci vado. È sotto il ponte. L'hai visto, si vede il ponte che passi giù e poi giri per andare al porto delle navi. Sotto lì rimane. E ci vanno, e poi lo bellissimo, perché bisogna sempre un bel gamio. Ci vanno un sacco di autisti, tutti gli autisti vanno là. Anche vetture ci sono, rappresentanti, ci andavo sempre io. Vabbè. Farina, prendi una bottiglia d'acqua. Salutala da parte mia, divertita si è. Sì, più di me. E beh, almeno ha girato un po'. Ma mi ha seccato il travaglio che viene per un biaculista. Forse usci. E poi vai anche tu lì, il lavoro lo trovi, non è come qua, no? Io lo so. Io lo so, grazie, non è come qua, no. Oh, sì. I ghibi anche se fai i lavoretti s'attarraggiati, nai bagnati nai, anche se non lo trovi fisso, o se no nelle fabbriche, in fabbrica di bigliare subito. Lo so, sono androni continentali. E allora, travagli umili non ne fanno per dire, ma non vale, i ghibi maniano e pagano meglio, è come te noi, no? No, non ne fanno le continentali, se no si bruttano le mani. Voglia, per carità. A voglia lì lavoro, caspita. Lo trovi subito, è impresa pure, ti piccano in burro subito, che dici che sei sardignolo, allora travagli come in Turaino, non hai compreso. E lui, già lo so, grazie, qua non c'è niente. Oh. Sì, vabbè, qua già c'è. Magari non qua, magari verso Olbia, così a Zacchena. Ma il continente, se ti sposti da una città a un'altra città più vicino, che poi sono vicino, da città a città, a voglia ragazzi travaglio, è un bel puro. Io questa moglie non fa quei patatini che avevo fame. Adesso vediamo stanotte una magna. Ma no, io poco fa mi ho bevuto un bicchiere di succo di albicocca, un bel caffè, niente merendina oggi no, nulla. E niente, beh, io sto cuveggia, oggi ho fatto uno spezzatino con i fiocchi, taglio bucco, carne di manzo. Ho tagliato tutti i pezzi di grasso, freghi, velari, solo la polpa, qualche pezzettino li avevo lasciati. Patate e fagioli ci ho messo. Ed è uscito un bello giaccato come ti piace a me. Buon aretto! Una battuta, noi ci mangiamo una frutta. Devo pensare che è grave mangiare una frutta. Oh, stamattina io mentre stavo preparando lo spezzatino, Paoletta, l'ho mandata lì a quella frutta e verdura nell'angolo di via Pascoli, dove ci sono quei ragazzi. E l'ha presa lì, tutta bella fresca la frutta. E ha pigliato un poco di tutto, fresca, albicocche, banane, i funghi, la zucca, arance, un poco di tutto là. Le ciliegie le aveva finite, le portavo stasera o domani mattina. Il melone, un'anguria piccolina. Mi ha sbucato un pino, mi ha sbucato, adesso un pino per la strada. Tutti hanno su quattro, e con una burita. Fai. Ieri in campagna mi ho fatto, no, avanti ieri, fino a che si campagna, una buca mi ha giovato. Ore, a ci sei, ho morto, sei. Ecco, giorni mari. Mormito sì. Pronto? Sveglia, sveglia che fra poco ci corichiamo, che sono le 7:10. Vabbè. Gianni Mari. Cucù. Luca Flipper, ci sei. Torre. sei? Babbo! Sveglia, sveglia! No, mi trovi, che ti scelta? Eia, è l'amico tuo, non sei? E che è l'amico? Io ho tanti amici io. Luca Frippero. Chi? Frippero, non sei? Boh, ma sei il torrente, ma sei chi? Sei bacato! Davvero, vabbè, sei bacato, sei! Da quando ha fatto i bruci, è diventato importante! Ma sei solo tu, no? Ah, che lui è diventato importante adesso! Da quando ha fatto il dirà! Davvero! Aspetta, vedo un po', Tore! C'è che trova presto oggi! E ancora non si sente. Chissà, Unie, e prendi il racchetto a palla a Santo Giovanni. Davvero? E allora? Oramai si è al passo di mi vedi in tutina gialla, in visiera, e correndo a destra a sinistra un vento mancante, a bordo campo. Bene, bene. E Luca lo c'è? Ci aspettate un attimo, ci sta sistemando quell'insalata che c'è nel portafrutta che dice la guascenni. Bene. Dottore. Ciao Giovanni, no, non è insalata, i finocchi stanno guastando, li ho puliti. Li ho presi, li ho messi dentro il mobile. Ci sono quattro giorni lì. Salù. Cos'è che sei bene? I finocchi, i testi dei finocchi stavo pulendo. Ah, uno me lo so come niente. A Luca e Antonello e la Zissimelli. Vai, vai. Allora, buono, vieni. Anche la belga mi son preso, Luca. Buona vita. Ed è buona la belga. Un po' malogno, dai, va, se va bene. Con pizzico di sale, non sai come ci scende. Una meraviglia. E ce lo dice lui, è così, eh. Oggi spezzatino, mi Giomari, moraretto. Vabbè. Tu ce lo puoi permettere, io mi ne c'è patata Giomani oggi. Che mara, pensa che non hanno immacolato, mi ne sei patato. Ma niente, la rabbia di Mario una riuscita. Non posso altro, solo quello posso mangiare. Beh, vedrai, io ando per il piatto di soldi, mangio di tutto dopo. Adesso non posso perché non c'ho soldi, sono piantato. Tu l'hai piantato, sei il tuo, come ti dà giudizio io, sono stato gradone. La piattina già è uscita. Così è. E allora? Oh Luca, la giusta piazza a 100 euro, sotto al gradone, fatta in butto. Fra un paio di mesi esce la piantina, la esce l'albero. No, malo è. Però da poi si piace quando comincia a tirare biglietti da 100. Cosa stavo parlando con Marina? A Gian Maria stavo dicendo che al prossimo anno fa la raccolta con un cugnolo di biglietti da 100 euro. Interrale, graziale, non ti capisco, eh. Adesso al prossimo anno incominci a fare la raccolta. Devo fare, mi sembra che lo faccio, Sì, mi sembra che lo faccio questa volta. Ti lo dico io, baroni, devi burimmi. Chi da poi ando è là più io, a controllare. Vabbè. Allora? Magari si potesse fare, magari. Anche adesso siamo impiantati. Da 1 euro a 2 euro. E dove? Anche un pugno. Allora passo. Ma si può fare, non cresci tanto, si va zigheggiare. Cresci, se ti lo dico io, cresci, la mano buona avrai. Ah boh. Bisogna fare la prova. Faccio. Ah, Gio Maria di Pozzo Piazza. Sì. Gio Maria. Tu che sei qua, bravo, piantendi. Di Pozzo Pianta 50 euro. Facca? Sì. La poi ci cresce, dividimo. Che colore vale 50 euro? Ah, boh. Sei graziato, mi sa il colore, io non riconosco il colore. Beh, lo so come quanti sono fatti di quattro, ma qui si l'ha detto. Marroncini so, color rossastro. Ehi, vabbè, già andare per piantare, da poi basta andare a Lucca. E gliel'ha detto a Marina, tutte quelle donne che ci hai portato a casa sua l'altra sera. Già lo sa. Quella bionda, quella rossa, quella nera, quella cinese. Quella bionda con i capelli neri. Già ti ho fatto la foto, già gliele faccio vedere io, le foto. Buono quel finocchio, buono. Poi li ha presi mio fratello, ancora più buoni. Domenica a casa sua. Proprio tenere delle dozze, buoni. Le ha presi lì ai punti. Adesso questi che stanno vendendo, se ne di arribini. Solo quando c'è il tuo spacchi, no, grazie, che ne levi la prima foglia, no? Io voglio sempre così. Poi c'è il figlioletto, buona reddito. No, ho preso anche le nespole, ma non che ci sono nespole di serra. Sono ben acquose. Si mangi chi va a Rubabu di Mariana, ti pone le mani in capo, ma buone, eh. Sono molto polpose. Io a campagna non ci ho fatto caso se finita, a vigrini. Mi sono passato vicino, però non ci ho fatto caso. Guarda, sono quante le albicocche, più o meno quella grandezza lì. Avanti, Gio Mari. Aspetta che sono. Rifaccio il piede, gli arri e via, capito, grazie. Sono molto, molto buone. E siccome ne escono un po' sulle vente, capito? E cosa siamo infatti? Cazzo, le ciliegie stasera assaggiato, buone, eh? Non sono al 100%, ma si possono mangiare. Ma quest'anno ne ha messo poche. Grazie, l'anno scorso ne ha messo tante, ma gliel'ha tutte rovinate. Perché è il tempo di merda. È questo tempo che la ruina ce l'ha tutta. A me le cose, le... La melanchidonia. Cazzo, non ve hanno che non viene una manciata, tutti manciati. Beh. Ma la cotogna non mi piace, è troppo. Un po' così rimane. Sì. No, lì è frutta già ne esce a Puglia. Dai mandarini agli aranci. A Puglia. Poi vabbè. Ficchi ne sono un bel. Ah, c'è un Simone da mintà, dai, già ne esce frutta. I ficchi ce li abbiamo anche noi, bianchi, neri, manni, minori, tutti i caridati. E domenica mi ho fatto un po' di aranci e un po' di mandarini. E infatti l'ho anche pulito un po', l'albero degli aranci. Da qualche rametto secco con la forbice, da che cucci una pisonata. Ma fichi però, ma duri, belli, buoni, buona rete, so. E infatti ne mette un bel, sono toneccato, un bel. Aveva fatto anche i fichi secchi. Quelli li facciamo ogni anno lui, in campagna, la dove la mezzuzzara, non sai quanto, la mezzuzzara. Cantone vazia, un bel, e infatti li vendia a imparare a lui, carivoria, e glieli compravano un sacco di gente, fichi secchi, pure voglio dire a loro, ma rimane ben profumati, buona rete, e me la rimane a due e due già, e anche adesso già li facciamo, l'anno scorso non ne abbiamo fatto, poi un po' ne ho fatto, me l'ha già sbranato, se lo rifacciamo noi. Ho capito. Ci vuole, grazie, la frutta, però sei quello che mangi, ci vuole, solo che vabbè, ci vuole anche lavoro sopra. Ma comunque già, ancora già ce la fa, dai. Anche i carciofi erano molto buoni, non ce ne sono più. Quelli che sono rimasti li ha tagliati, li ha fatti sotto le voci e vanno. Ma quando uno abita in campagna, un colpo di zappa va, un colpo di zappa a bui, si piace di tutto. Io facevo così quando ormai eravamo in campagna e c'era di tutto sempre. Certo, poi ho visto quel video che ha fatto tua figlia, stavate arrostendo. Stava arrostendo, ha tagliato pure l'erba, tutta quanta, solo che adesso bisogna ripassare, adesso è più corta e gli viene meglio, fa zebrima. Allora la carne cotta con quel barbecue a gas non è buona, io l'ho mangiata, non è buona, non è buona. Non c'ha il gusto da carne cotta arrosto con la legna. Grazie, no, io l'ho mangiata ma non mi piace. No, a gas. E anche qua io ce l'ho una piastra in ghisa che Paoletta molte volte fa veloce la cucina sopra il fornello, mette quella piastra e sopra ci mette la carne. E beh, noi ci esauriamo e poi ci fatta a carbone, sempre cotta a gas, pure se sulla piastra, è tutta una cosa diversa. Di questa maniera, fatta a carbone, nata la graviglia, sgocciola il suo grasso che c'ha in più e tutto. Invece di questa maniera rimane tutto quanto in nata la piastra e non insaporisce col carbone, capito? Il carbone l'aiuta. E rimane tutto un altro sapore più buona. Ma anche il fumo, capito, le dà il suo sapore. Sì, ma la piazza è molto meglio di quella a gas. Io ho mangiato capocollo, non so, il sapore non è totalmente diverso, è più gustoso con tal legna, no? È la sua morte, ma non mi piace, Marino. Vabbè, certo. Ah, certo, ho capito. Vabbè. Tu te l'hai comprata grazie a tu, vero? No, ancora no. Vabbè, da altri mesi. Perché mi devo pagare l'assicurazione della macchina anche. Capito? Me la prendo, ce l'ho sul telefonino. Quella che ti avevo mandato. Ma secondo me come comprarti un barbecue di chi sia a legna, mi oreddu e lo fai. No, ma piccolino non ne voglio migliare. Mi è durato un anno che su di Lucca, un anno mi è durato. Un annetto, anche se lo coprivo, si era mangiato le tepeglie e poi come la mela è finita, si è pure campato, se ce l'ho buttato, ma è domenica. Vabbè, grazie, a me non mi piace con questa cosa, forse magari condita, come sta facendo Marina, gli è prezzemolo, con l'accetto, sai, a bagnomaria li poni, magari prendono più sapore, E poi ha fatto lei, io ormai avevo già finito di mangiare, le ali di pollo, erano già le tre, e mi fate mia cugnata, ce la mangiamo, ma che ho già il dolce. Non ti ho sentito che mi ha chiamato Paoletta. No, in quella graviglia che ho io, cioè graviglia, è una pizza che la appoggi sul fornello e sopra si buoni da garo, però non è se buona come la faccio fuori sulla graviglia, capito? Ma gas, poi c'è la pietra vulcanica, basta carità. Purtroppo è così. No, ma nel braciere esce più buona. Adesso poche da limone, chi si aggarica giù fatto domenica in campagna. Buona vita, appena barata subito sbranata. E neanche è rimasta, quella che è rimasta l'ho fatta al cane. E la si fringisce chi? Ah, un bene avanzata. Ma le ho date ai cani, se la lascia alla sera non serve, specialmente la banzetta, e un capo collo diventa pucci. Grazie, sai cos'è che... No, vabbè, se è cotta lo stesso giorno già è buona lo stesso, l'indomani gli fa zicifu. No, ma la sera non mi piace, ma capoletta piace, a me mi piace cotta e magnata, e poi alla sera... No. Poi la giulanciati al volo la li agguantati, ogni cosa ha fatto... Vabbè, già ho visto, comunque capocollo ce lo mangerei, perché si avanza la sera, poi domani io ci asciutto a drupp. No, io ne mangio un pezzo, mi ne mangio, noi mi ne mangio una. Un pezzo ne giro, se c'è il grasso intorno, nei buchi, solo il pezzo della polpa mi mangio i buchi. O se no lo taglio, mi stacco il pezzo che voglio bagnarmi e l'altro te fa le mani a te la dire, e già ce lo mangia età. Perché? Tu ci visitiamo lugari. No, ma i cani gli diamo sempre gli avanzano là. Anche la pasta ne esci da un bel... Sì, non le parlo più vero, va bene gli annani, mangiava, ne li crocchetti. E ma gli avanzi che avanzano, la lugari gli dai. E allora, io mi domando, io poi la domenica quando c'è in campagna non ci rimango a cena, piglio le tracce e mi avvio. Ah, così è, fai bene allora. E là con tutti i chili, fa, mangia di rugiù, fai che su che ti piace, piglio le tracce e mi avvio, non ci rimango male la domenica sera, no? Oh, e manco lo sabato che rimango, è raro. Via. Casino, o se c'è qualcuno che vuole entrare, guarda se lo senti tu. Ciao Maria, già sentato. Io prima rimanevo, anche c'è dopo dal venerdì sera, quando c'era a lavorare mi baciavo appena la sera. Sabato e la domenica sera me ne risalivo oppure dormivo lì e andavo da lì al lavoro, capito? Però adesso no. No, magari mi può darsi a estate, adesso, quando migliora il tempo, forse non manca a dormire. Però, non mi ci trovo più come prima. Capito. Sono convinto. Vabbè, tra un po', va. Tra un po', ma io dico che dalla prossima settimana fa caldo, io ho visto che domani fa pioggia, domani è meglio, domani è mercoledì e giovedì. Ah, e oggi c'è pure domani che se ne farà l'aria, domani l'ho visto già al televisore, strano, non si vede manco una nuvola, vai a comprendere giù di questo tempo. Ah va so che maglietta, domani devi pulirci un colpo. Ah, io sono con il pigiama felpato in casa, in tua casa va freddo. Comunque ha messo oggi pioggia, domani, tutta la settimana. Vabbè, siamo a giorno. Allora, ha messo pioggia, vabbè, oggi, domani. No, adesso così stendi, oggi cosa, martedì è? Oggi, mercoledì, giovedì, venerdì, no, sabato e domenica. Io ho visto la televisione, domani acqua, oggi no, e mari mussi. Tutta la Sardegna, pure le Cagliaritano, anche in Ogliastra, anche a Udda, tutta la Sardegna, e mari mussi. Domani e dopodomani ho visto. Sabato e domenica non lo so, però ho sentito dire che si ne farà l'aria a Roma stessa. Prova la lumaca se piove. Infatti, in campagna, negli alberi, nei buchi degli alberi, la sera non ti vieni l'aria. Solo non ne le ho tirate, le ho lasciate. Ha già fatto male a chi non che se ne ha fatto un poco, Maoletta. Tutto con cui. Pure quel giardinetto sotto acqua, sotto al terrazzo. Oh, lo macconi escono anche lì. Perché io lì altre volte c'è anche un bocchi muggio, ce lo buttavo di lì dentro, no, dalla finestra, quando risciuvarava a pulire la rete. Se ne cattavo che un bocchi muggio, se lo pulì ai vidri. E ogni tanto, paletta, quando lo pulisce, ne trova 7, 8. Di lo macconi, adesso se ne batto un iso. No, io sono un posto, dai. Bisogna camminare un bel pezzettino a piedi. E già ce n'è. Anche a Maria ci ho portato. L'abbiamo fatto, mi lumacche. No, ma ti ricordi? Tra lumacche, lumacconi. Qua un anno sono andato di fronte a San Camillo, proprio di fronte a San Camillo, dove ferma il tram, in quel piazzale dei partiti. Ho parcheggiato lì e sono entrato in quell'olivetto di fronte lì. Adesso che sono arrivato, due gasiani di dinta, eh? Poi sono andato il prossimo anno a prestare quello e vedo il cartello, campagna americana, sono entrato da vedere, beh adesso non vedo né una gioca né un cucù, nulla a me. E poi c'è la medicina e l'animusci. Sai che le lumache si mangiano tutto, ma lì hanno piantato anche. È un rivetto solo, quello proprio di fronte a San Camillo. Allora, sicuramente l'hanno messo la medicina e l'hanno ammazzati tutti. Ehi, vedo un cartello, cancello non viene, vedo un cannao da filato, raffilato, non ce n'è cancella, adesso non lo so se c'è. Era B, infatti io sono passato sotto un cannao quando l'ha giubbato con Paolo. E ha dirigito campagna americana, e io lavorare il busto ma non entra nessuno, sono entrata, se manco una ce n'era. Signore, all'anima ricata e l'anima urti. Visto, non è più trovato, no, io lo so un posto, e ce n'è. Sono andato anche con Marina, praticamente fai un giro strano, proprio... diciamo che cammini a filo di queste canne, ci sono delle canne a filo e sono una ciappi, un bel. Infatti se ne scende l'aria mi faccio un salto. Guarda che un anno a falegnameria, proprio all'incrocio lì per prima dell'incrocio del terzo pittine. E chissà da che è a dritta, dove c'erano i cazzoletti della Mondezza tutti in fila, presente c'era. Lì, allora la monza che ha giubbato i monzari da cagliare nella cugli, ma con le mani a pugni mi le prendivi, le monzette. Poi non ne ha più messo, perché ci sono andato poi gli altri anni non ce n'era più. Tu lo sai come ti chiama questa monza? Cosa? E tu lo sai come ti si chiama questa monza? Boh, monzette. Monza bagassa. E poi solo quell'anno infatti hanno invitato a me gli accogliere con un gaggiato. E hanno cominciato a filmarsi un bel di macchine in cunetta e brincavano a drento, entravano a drento. E a pugliare il burugice. Ah, ci crede che me ne sono andato a mal di schiena a pugliare e stare inchinato, raccogliendo e buttando dentro il sì. Ma tu facevi un passo di ripieno tutto circondato. E comunque viene chiamata così, dai. A me piacciono bene le lumacche. Poi i lumacconi quelli piccoli, sempre fatti a dire prezzemolo, il peroncino. Poi le lumacche grosse ancora di più. A me mi piacciono, ma il buccio magna, ci ho fatto la prova e sono allergico. Mi gripa, anche a me mi aveva avvelenato la bocca, dalla bocca, sono allergico, anche se le tocco con le mani, nude così, mi dà fastidio, mi sento che si lisci gammoso in bocca, me ne intendo, per carità, e poi mi sento le guance frizzanti, capito, aprurito. La lumaca non ne mangi tu così? Tony, ho provato anche con le lumacchine a assaggiarne due, Dopo un quarto d'ora mi sentiva già le fritte, ha detto, boh, basta, il pazzo quando si mangia ne la gioca a fare. Ho capito, comunque sono buone, a me piacciono un bel. Sì, aglio, va, aglio, prezzemolo, peperoncino e pane grattugiato, mamma mia. Lo so, andate a sempre a Cuglia, sempre sono andato. E anche dopo che non ne potevo mangiare, ci vado sempre a farle. Ma purtroppo non ne posso mangiare, cazzo, mi sarebbe andato al pronto soccorso. Secco, me l'ho scappata per un pelo, ma per in altro brutti. Allora grazie, non li mangia, io me la mangio io la bastiduia. Però Paoletta gliela rimagna. Sì, e quando non le facciamo le compro, beh le compro, loro le mangiano, lei, mia figlia, le mangiano. E io non le mangio, mi mangio una fragozza. Che poi la tentazione mi viene, però so che mi fa di male e non li mangio. Me l'ho vista brutta. Avrà voce, ma oh, non saranno. E tutti quelli da Centuro ti venivi su di voi. Non me ne pongo di problemi. Le cose che proprio so che chi mi fa di male non li mangio. Ho provato ad assaggiarla, però già mi accorgo che mi da venire il fritto e allora non li mangio. Mangiami, dimmi male, manco bassogno, no. E poi sono stato un bel male la volta che mi ha avvelenato. Vabbè, la magna, subito per magna, grazie. Allora non puoi manco, vabbè, adesso non ce la fai più andare a fare lumacche, no? Ma non quando? Prima già ci andavo, prima di peggiorare così, non c'avevo neanche la diabete, manco la fanno, va un cazzuolo. Se la vengo che dura così in campagna gli anni la cui, gli dici come te, si asciutti attaccati dall'albero e nel muretto, quelle già le prendo, ma andare a cercarle non ci vado, non saranno. Ma l'età già ci va. Già beh, dura camminare. A voglia. 10.000 euro. Lo so, e poi è ghiaccio, perché camminare pure un bel. E cammini vadiamo in strada quando andate a seccare la gioca. A voglia non camminavo. Non ho capito, grazie. Che quando andavo a cercarla, a voglia di fare chilometri a piedi. E in assata, in parada, in pianura, se che ne gioca, ne ho fatto di strada. Da tutte le parti sono andato. I ghibili d'anche di Anurra, a faccio ghita. Vabbè. E si buoneo. Per carità. Lascia tra un po' inizia anche le lumacchine. Io me la vendi a Burumi. Le portavo a casa, ma poi me la vendevo anche al circolo degli autisti, la portavo lì a sacchetti, la gioca a minuta, la gioca, lungo poi lo buttava a casa, solo la gioca e la gioghita. Sì, già lo so. Lo so che si vende lì le lumacchine, beh, poi le cucinano, fanno, capito, una specie di se ne vendono anche loro, ma a piattino 2 euro, 3 euro e se ne ricavano un po' di soldi. E quando mi ero appena sposato in estate, che andavo al terzo pietre, quarto pietre, quinto pietre, anche alla Marina di Sorso, poi la sera, lo sai cosa facevamo con Paoletta e i bambini? Passava a Sorso, saliva a Senori, all'uscita di Senori sulla sinistra di fronte al rifornitore c'è un bar con la veranda, chi si di cucinava la gioghita, ce l'andavamo lì prima di rientrare a casa a mangiarsi la gioghita e la birra, ogni magnata di gioghita quasi tutte le domeniche e il sabato sera. Grazie a Dio Maria ci ha abbandonato Magna il bolfo Hai capito Il suboi pu frejo, anche per due simuro e peperoncino. E allora, altro che fare dai rocchi con noi, chi ci sta arrotendo i denti? E allora, vero Gio Mari? Poi gli fa la bocca piena, invece chi dà sul toro e fai un racchetto a palle a Santo Giovanni? E ieri entrati siete? Ieri io non l'ho acceso, non mi metto un sviluppo indietro. No, ieri non l'ho neanche acceso. Non mi ricordo cosa stavo facendo. Ho capito. Sfrenato, licenziato, licenziato. Boh. Non so. Oh yeah, a cane licenziato. Ah, vuoi gioco lì a canale 5. Ah, di Jerry Scotti. Eia, Jerry Biscotti. Eia, chi c'è quel ragazzo? Eia, se la tu pure un altro, va. Non indovinare questa parola. Licenzioso. Intanto qui si chiama un bel poco di dinarci l'ha fatti, Ivi. L'altra sera ha detto quando è arrivato già Jerry Scotti, di dinarci si ha fatto questo bizzino. Mi ha detto. Ma insomma pure salvetto. Quello studia a me. Anche intelligente, abbastanza intelligente. Molto preparato. Qui ce n'è un altro. Ma se quelli di pure a Brughissu. Quella gente così fa non vedi cruciferma, amico, questi così così. Ecco perché sanno un bel così. Già lo so. Vabbè, ma studiamo comunque. Allo stesso tempo studi. Io faccio un amico i sardi, dal mattino alla sera sempre fanno i cruciferma. Qualsiasi cruciferma che gli dai, qualsiasi coso, è di rubarsi. Beh, certo. Andiamo pure noi, grazie. Se posso farai un giosso. Io c'era un periodo che me lo compravo, lo faccio, ma paletta lo fa sempre, ogni sera. Anche poco fa lo stavo facendo. Se glieli compro, se lo compra lì. Se ne faccio un bambi, ogni due di dammi 10 minuti che andiamo a pigliarmi già, che già finito. Andiamo a lasciare i biscotti. A me mi piace le fette biscottate con la marmellata, il burro. E bella glicemia, grazie, come ce l'hai adesso? Quasi normale, oggi prima del pranzo ce l'avevo 101. Infatti ha detto, beh, lo so che fammi o no, e me ne ho fatto 6 cc. E poi, dico, ma al massimo quanto ti sale? Ieri notte invece ce l'avevo 210. Oggi ancora non me l'ho misurato, dopo me la misuro. Ieri notte, prima di coricarmi, me l'ho misurata, che mi ho fatto l'insulina della notte, era 2,10 e poi stamattina era 154. Ma tu non te la segni nel calendario, quello piccolino che ti danno? Sì, di lì me lo segno, però il diabetologo mi va a rigare la macchinetta. E si controlla la macchinetta, a chi dice tu sei l'onfio e un libretto puoi scrivere chi su che ti biasi. Allora mi fai una riga la macchinetta delle glicemie e si guarda la macchinetta, capito? Lo so, lì risulta tutto, l'ora è tutto, già lo so. Così non lo butti, mi compreso, a chi tu un giornalino puoi punire. Ehi, visto che vuoi tu, capito, se mi dai alta magari la segni bassa, compreso. Certo. Ho capito, Casino, Uia. Mamma c'aveva, prima di pranzo, 161. Però sono alte. Perché... Allora, domenica siamo andati a mio fratello a mangiare. Gli altri mi ha accogliato e gli un pezzo piccolo, ci è rimasta male lei, mi grazia, un pezzo piccolino di pasta al forno, poi si è mangiato due cose, due, roba, due funghi, un pezzo di salsiccione e poi la pasta. Ma ci è rimasta male perché dice che c'è CBD, è incazzata. Ma tu non gliene dire davanti a lì, no, a tuo fratello. Venuti all'acquati, danni di poco, ho passato lì a mamma tua e gli dai da poco, fai così, compri. E se non ci rimane male, sì, chiaro che devo vita per rimane male. Tu non le devi dire davanti a lì, non le devi dire nulla, se lo vita si offende, male così ma si offende. Attento Bacchiso, buonasera. Mi ha detto... Ma tu non vuoi venire più, tu mi stai già ligato io, mi. A meno che sale Carletto la prende lui. Ciao Bacchi, ciao Marino. Ciao Marino. Poi la chiamavo tu. Ciao Marino, a ci senti? Sta parlando, se ha fatto l'entrata e l'uscita. Mai non ci sente. Va a parlare ci brutti, Marino, a ci senti? Attento, Rosmarino. Oh, chi si è sbagliato? Invece di pigliare il microfono della 27 ha pigliato un BMR. Beh, è piazzato quel lampadario. E qual è il lampadario? E c'è dato Luca. Oh, non so dove me ne ha portato, non ci sono potuto passare io. Ah, oh, ho capito. Magari tu ti d'accordo ma te lo prendi. Ehi, quando lo sento se ce l'ha ancora, se no, pazienza. No, mi ho venduto la scrivania con la sedia. Ah, l'hai venduta a chi? È giunto un tipo. Prima mi ha telefonato. E gli ho detto, vieni a vedertela, se ti piace i givi, se non ti piace rimane i givi, non ho problemi. Ma di quelli che ti ho mandato io sicuramente. Ma lo so perché era su Facebook pure, non ne ho neanche chiesto. Un muratore è questo. A me hanno scritto in tanti, capito? Adesso mi stanno scrivendo per la scrivania, per la cristalliera, però dice che... non ci sta per pochi centimetri. Anche a me una ragazza di paese, che di Puttifigari, che a quell'amica mia gli ho mandato la foto a chiedere lì a Puttifigari. Per l'altezza non ci sta, si va in una taverna e è troppo alta, 10 centimetri. E se no si rabbigliava al volo, ma non ci sta di altezza. Per quanto riguarda la scrivania con la sedia, giorno messa avanti ieri, 25 euro, ma si è 50 euro, cosa da farsi, che fastidio questa gente? Ma io quando ho comprato qualcosa così, mica ne dico come te gli stato rubile, ma ha detto gentile, la città bene, non ho problemi, se lo sto chiamando vuol dire che mi interessa. Sì, mi ne ha che mi lascio con biglietti. E mi ne ha regata la sera mattina. Il marito con la moglie, questo mobile che avevo preso qua alla cucina. E già se ne vale 100 euro, è nuovo il mobile. Aveva ragione, e poi dalla foto si vedeva che era nuovo. Certo. Comunque si è portato via la scrivania, ma sarà smontata. La gente guarda secondo che macchina c'è, ci stammi, io questa me ne avevo portata in macchina, nel cofano di dietro, ho abbassato la spalliera e ci stava giusta. Mentre no, già c'è una macchina, un sub mi pareva via. E nell'ascensore ci stava giusta, di lungo, giusta. Ho detto, no, già ci sta nell'ascensore, se la butta l'ascensore. E poi gli ho acceso la sedia e gli stavo a buttare e ci sarà buttata. 50? 50, mi ha detto sempre 50, non lo so, 50 ti ho detto, 50 sono, non ciamba. Se la vuoi così, se no non è un problema. E poi mi ha scritto un tipo, questo Michele, che voleva la cristalliera. Ho detto sì, è ancora disponibile. Poi mi ha mandato un messaggio, ho detto 3,50, in ottime condizioni, vero Marcello, insomma così. Vabbè, poi c'era scritto anche su Facebook. E mi ha detto non ci stava per pochi centimetri. Mi ha detto grazie lo stesso. Anche a me quella di paese mi ha detto così, anche la moglie che abita lì a Valle d'Uria, Maria Grazia, si chiama, non ci sta lo stesso, è sposata con un amico mio, con Sergio, ed è alta e non ci sta nella cantina come altezza, se no era venuta a buttarsi in sfida, ma non ci sta. Ho capito, vabbè, ci vorrà, a casa di mamma ci sta, oh che croce, ci sta, e come, ci sta anche bene. In appartamento normale ci sta, chi sta gente di vani, la cantinetta, ma capito, il più, queste cose, il Marcello così le se li comprano, quelli che hanno la cantinetta. Già ce n'è gente che c'ha tutta la casa arredata così, io ne conosco parecchi, e niente, un altro mi ha telefonato adesso, gli davo solo la base di sotto, l'ha detto la castellera, non mi la buco in capo, no, se non vuole dire bene tutti e due, se no niente, ma a me mi serve solo la base, quella di sotto, no, se non vuole tutti e due. Ammacco. Cazzo la gita io il pezzo di sopra dove me lo metto in testa me lo appuccio, scusa. Noi la busso quindi separata, tutto insieme, è in due pezzi, dunque, la cristalliera cosa posso, la picco senza un mobile sotto, non l'hai mai vista, boh. Ma infatti, grazie, vi provani, capito. Ma poi non puoi tu darle il pezzo di sotto, solo un attimo il telefono, mamma, grazie. Ehi, Luca! Aspetta, grazie, a 2-5 secondi. No, sto chiudendo, va, a domani! Ciao Marina! Ciao, grazie, ciao, sono da Paoletta, Marina in cucina, ti saluta, dai, ciao! Ciao, a domani!